sono un giornalista che vale $250 la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Un cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. The United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. We will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Todos somos americanos. Oh ragazzi, non so se avete capito, sono le 6.30 del mattino, ma ieri si è fatta la storia. Cioè, qua i giornali in Italia, da oggi per la verità devo essere onesto, danno il giusto spazio, il giustissimo spazio alla svolta storica, dopo 56 a 55 anni, dopo il 1961, Obama ha aperto le relazioni diplomatiche con Cuba! Si fa la storia, eh? No, dico, i giornali un po' in Italia parlano sempre del dibattito sull'Italicum, eh? Però ci sono cose un po' più importanti se uno allarga un po' gli orizzonti, eh? Le 6.32 minuti con questa versione un po' così pop. Il comandante Che Guevara. Voglio subito salutare Vincino. Ti giuro, Vincino. Guarda che io non lo sapevo che tu avevi fatto la vignetta su questo, eh. Io sono in piedi sull'attenti, praticamente. Perché io, guarda, ti dico una cosa, anche io avevo già 18 anni, 19 anni quando Guevara scomparve, no? Sì. Poi si ritrovò, poi riscomparve e poi dico, tutti eravamo sicuri, invece no, e poi alla fine se lo fecero. No, io non lo sapevo, oggi Vincino mette sul foglio la vignetta tradizionale in prima pagina e mette il testo proprio di questa canzone. Ti giuro, non lo sapevo, ho detto, beh, oggi dobbiamo iniziare così, poi ho preso il foglio, sai com'è, prima leggo il Corriere della Sera, perdonami. Ma io mi commuovevo a sentire questo, ma devo dire anche un'altra cosa, io il primo libro di satira che ho letto era Cuba Rie, perché a Cuba all'inizio era un posto bellissimo, Gianni Minaghi, disegnatori meravigliosi, c'era una vignetta proprio che mi scolpì nella testa, c'era un incontro tra Italia e Cuba e c'era una, come dire, una palla di baseball, una palla tutta piena di spaghetti che camminava per l'aria, no? Questa era la satira alla cubana, la satira alla cubana. Lì con gli spaghetti uno dei miei più cari amici, Roberto Perini, che vive 6 mesi a Cuba e 6 mesi in Italia. E dove sta meglio? Ah, lui sta meglio a Cuba, in testa sua Cuba è il posto più bello, lui e Vauro pensano che Cuba sia il posto più bello del mondo. Lui Vauro e Gianni Minà. Gianni Minà, non invece una prigione terribile, insomma, le cose. Comunque si fa la storia, si è fatta la storia, si sta facendo la storia. Giustamente il titolo Repubblica scrive cade la caduta del muro Cuba, è come la caduta del muro di Berlino, questo è un fatto storico. Insomma, siamo la riapertura. In ritardo di tantissimi anni su questo. Sì, ormai l'embargo, qualcuno scriverà, è diventato una farsa. Però torniamo a parlare dell'Italicum adesso. Sì, no. No. Va bene, sono le 6:34 minuti. Fatevi salutare Lorenzo Nespoli in redazione, l'alpino Peter Bescapè in regia. Ieri abbiamo avuto una serata. Siamo andati a festeggiare il Natale tutti. Ecco, adesso non è che posso dire discretamente alcolica, no, però l'alpino chiaramente è l'alpino e si sa, Lorenzo Nespoli è Brianza operosa e quindi Brianza attiva e quindi anche lui con... vabbè. Comunque, niente, apriamo il Parlamento, va che è meglio. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Parlamento, forza gente, accorrete al Parlamento. Saluto anche Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, che nel 1961 dov'era Maurizio? Avevo 2 anni. Due anni, e ti ricordi quando la crisi? No, non ti ricordo. Però ho pensato, mentre ti ascoltavo, mentre ascoltavo le parole di Obama, somos todos americanos, Bello. E effettivamente è una frase che verrà ricordata esattamente come viene ricordata da tanto tempo la frase di John Fitzgerald Kennedy a Berlino. Ich bin Berliner. È chiaro. Io sono un berlinese. Casi, quando uno vuol fare la storia, sa che deve dire la frase però, che arriva. Però sono due momenti veramente importanti, ed è giusto celebrarla questa cosa, perché un'apertura, devo dire, mi pare intelligente e giusta, malgrado le proteste degli oltranzisti cubani e dell'estrema destra repubblicana americana. A Miami. Anche perché non è servito a nulla questo embargo, durato più di 50 anni. Ma no. Ma infatti, devo dire una cosa. Ha soltanto consolidato il regime. Si analizzerà poi in tanti aspetti quello che è successo. Il dato di fatto è che per ora c'è una svolta storica. E tra l'altro tutti i giornali sottolineano il ruolo del Papa. È un ruolo, poi lo vedremo in rassegna stampa, un ruolo proprio centrale, perché il segretario di Stato ha fatto degli incontri. Sono incontrati a Roma in segreto, per telefonate. Le lettere del Papa a Raul Castro, a Obama, mandate ad agosto, insomma, cioè, queste cose non è che Vinci, non è che si improvvisano così di giorno, dal giorno alla notte. E ce l'hanno fatta. Vabbè, che dobbiamo dire, Vincino? Contento? Ma poi è di una forza, sono tutti americani, e questo, è una cosa. La forza di verità è enorme, è più forte questa di quella che siamo berlinesi, perché Kennedy tanto berlinese poi non era, no? Mentre là sono veramente americani. Non è che l'andammo a trovare con Cristoforo Colombo, che me lo ricordo ancora, era là. E l'hai conosciuto tu, Cristoforo Colombo, più o meno? Era un genovese di quelli là, imbroglioni un po' così. Come un broglioni? Perché come dire, lui scopriva un posto e poi voleva metà dei soldi del loro, che si come dire, gli spagnoli poi dicono che cavolo, quanto oro vuoi tu? Esatto, uno di quelli un po' imbroglioni. Vabbè, stasera che... però, Vincino, tu stasera vedi Vauro a nulla. Assolutamente sì. Certo. E come sarà? Triste? Sarà triste? No, sarà allegrissimo. Lui, come dire, lui è un fan di tutti i regimi comunisti nel mondo che rimangono, praticamente. Appunto, è la giornata di festa. A cosa si appella adesso? Non so, cos'è rimasto? La Corea del Nord per Vauro, no? No, ma quello ancora rimane, rimane come Cuba, rimane ancora, mica è che sono cominciate le elezioni libere là. Esatto, cioè, non è che... Che poi per Obama le elezioni libere perderebbe alla grande. Insomma. Ma noi li conquisteremo con i McDonald's, Tortorella, portiamo subito una decina di McDonald's a Cuba e conquistiamoli. È garantito che crollerà il regime, l'unica strada è quella, è pensato così peraltro. Ma sì, come è crollato il regime cinese, insomma, Tortorella, io non ci scommetterei tanto. La Cina è un po' più piccola e più grossa di Cuba. Infatti il regime c'è, è chiaro, sono queste formule, adesso non è che dobbiamo fare l'analisi, sono forme strane, non è che uno si apre alla democrazia così di colpo. Però dicono che Sì, nel 60 le speranze di tutti i giovani del mondo erano a Cuba. Oh, erano anche un po' le tue. Di la verità, c'è stato un momento della vita in cui avresti... Guevara era assolutamente, Guevara che lottava prima in Angola, no, per la libertà dell'Angola e poi dopo in Bolivia per la libertà della Bolivia. Era la speranza di tutti noi che il mondo si poteva cambiare. Bastava salire i 10 su una montagna e via, no. Poi c'è Guevara e poi... I pezzi di merda che tradiscono, che fanno i partiti comunisti che ti rompono le scatole e via, finisce tutta la bellezza. No, chi sono, chi sarebbero i pezzi di quelli che hanno tradito Che Guevara? Il Partito Comunista Boliviano sicuramente, lo stesso Fidel Castro in grossa parte, Regis Debray che tradì pure lui, ma sono un casino i traditori di Che Guevara. Hai capito, Tortorella, alle 6.39 del mattino cosa propiniamo ai nostri ascoltatori? Cultura, alta cultura. Anche se Guevara non era certo uno stinco di santo, ragazzi. Vabbè. Ma nessuno è uno stinco di santo, però è ora quando si fa la rivoluzione non è che puoi fare lo stinco di santo. Ma marijuana, ma anche politicamente non era questo democratico. Non era questo ma la rivoluzione non è democratica. Esatto, la rivoluzione è violenta. La rivoluzione è uno strappo. È violenta. Totale, è uno strappo, è violenta. Mica vuol dire che. Certo, è no, è chiaro. E non è che si fa la rivoluzione in Kashmir. L'avevi Battista che era una festa di gala, diceva. La rivoluzione non era una festa di gala, appunto, diceva. No, ma poi avevi Battista, avevi le compagnie americane, quelle là delle banane, dei petroli, dei coi. Gli americani erano aveva fatto un colpo di stato. Quello veramente poco democratico. Della rivoluzione cubana non è stato. Ok, Vinci, va bene, adesso Tortorella, Vincino, torniamo a Bonanno, Brunetta, Fico. No, per carità, no. No, vabbè, che dobbiamo. Restiamo alti, no. No, effettivamente oggi stridono un casino i giornali, no? Con questo racconto, le prime 5-6 pagine di tutti i giornali, soprattutto Corriere, Repubblica, sulla svolta storica, l'analisi, e poi dopo giri e dice l'Italicum approvato forse entro il 23 gennaio. Ti viene proprio, come dire, hai uno sbandamento, Vincino. Anche tu ieri, Vincino, non hai seguito la Camera del Senato, dai, ammettilo. Ieri. No, ho seguito un pezzettino piccolo, no, della cosa, ma lo vedevo proprio che erano fuori di testa pure loro, no, sì. Ho seguito Cooperlo che proprio era una cosa patetica. Sì, cioè, proprio si arrampicava sugli specchi, riscendeva e si arrampicava. No? Ma cosa ha detto Cooper? Ma non ho capito, poi alla fine cosa ha detto? Che alla fine voterà tutte le cazzate che faranno votare, però lui per i 5 senatori che non devono essere il Presidente della Repubblica, lui tiene duro sui 5 senatori, ma vaffanculo che se ne fosse dei 5 senatori. Ma quali senatori? Ma i senatori a vita? Ma è andata così, i senatori a vita, terrà duro sul fatto che il Presidente della Repubblica non abbia senatori a vita, ma chi se ne frega senatore a via, qua stiamo facendo la storia, il popolo, la Cuba, no? Cuba. Cooperlo, dai, 5 senatori streaming city, ma a parlare con quella sua vocetta da dintorni di Milano, c'hai quei dintorni di Milano? Maurizio, di qualcosa, tu sei un toscano ma sei ormai milanese d'adozione. Parla bene lui, dai, su, tu Maurizio te la sei persa questa di Cooperlo, questa strenua difesa dei senatori a vita. Totalmente, non so neanche chi è Cooperlo. Ieri mi ha appassionato molto di più la cronaca giudiziaria, prima che scopriate quello là che è al decimo processo, se non si riescono Garlasco. Dai, però scusate, io non ho seguito le udienze, non ho seguito il processo e si forma tutto nel processo. Ma ho letto degli articoli, ma diciamolo chiaramente, Ma chi è stato se non è stato Stasi? Ma l'uomo nero che passa. Ci sono anche gli uomini neri che passano. Ci sono gli uomini neri che passano anche. Non è che poi l'abbiamo assolto 6 volte, non è questo qua. Cioè in America ti assolgono una volta. Se si vuole fare un discorso. Oggi c'è un vaffanculo facile. Ti assolgono sei volte. Cioè in Italia se ti assolgono 6 volte scappi, perché alla settima volta ti devono rompere i coglioni. E infatti Meredith Kercher è scappata. Hai ragione, 100 volte. Però adesso se vogliamo fare un discorso sulla giustizia, no, sul meccanismo. Amanda Knox. Chiedo Venia. Meredith, poi ci confondiamo, questi tic-tac del cavolo. No, cioè, certo, ma eri la vittima. Chiedo scusa, manda Nox invece a scopare. L'afghanese, però si sa chi l'ha ammazzata, quello del Ghana, là, quello... Sì, Rudiger. Adesso mette dentro tutto. Fermati un attimo, vicino. No, però, ma io vorrei, Maurizio, cioè, se vogliamo parlare della macchina giustizia italiana, per cui uno dopo due assoluzioni, adesso c'è una condanna, che poi non è detto, poi c'è la Cassazione, adesso non è ancora finita. Però perché hai seguito... Cioè, tu ti sei fatto un'idea su questa storia di Garlasco? In realtà no, sono più più che su Garlasco, io ero molto interessato alla vicenda, alla vicenda torinese, cioè al fatto che la procura... Ah, i notavi, esattamente. Non li considera terroristi. Esattamente, non sono terroristi. Ed è un salto di qualità pazzesco, anche perché appunto uno può... considerarla dal punto di vista di destra, di sinistra, tutto quello che vuoi, però dopo anni e anni e anni ai quali appunto si è discusso, si è polemizzato disperatamente e violentemente anche tra chi appunto pensava, come la Procura di Torino, sì, Caselli prima e adesso Spataro, che i notav potessero essere inquadrati come terroristi, e invece i giudici che hanno stabilito diversamente. Sì, non è che hanno stabilito che siano dei santi. Ma devono essere terroristi questi qua, scusa. Ma scusa, c'è una lotta dura, c'è un senatore, il senatore Esposito, che oggi dalle colonne dei giornali dice: scusate, io ho la scorta. Allora perché? Mi è stata data la scorta perché in nome, perché questi. E perché allora ho la scorta? Perché ha avuto qualche minaccia, ma la scorta ce l'ha pure Ferrari, ce l'hanno un sacco, tutti quelli che vengono minacciati c'hanno la scorta, ma non è che c'è tutto questo terrorismo in giro, cioè. Ma io non lo so. Non è che hanno detto che sono dei santerelli quelli, ci avranno la loro condanna. Se... Va bene, ma come a Roma? A Roma non c'è la mafia, va bene? Niente mafia, niente terrorismo alla tavola. Associazioni delinquenziali di ogni genere, di ogni tipo, ma non è mafia. Non è mafia. Oh, allora abbiamo stabilito. Niente mafia, niente terrorismo, niente terrorismo alla tavola e soprattutto, caro Cupero, niente senatori a vita. Soprattutto. Ma Cuperlo non li vuole i senatori a vita. Io per me sì, l'unica speranza di fare il senatore è quello là. Tu punti a senatore a vita, certo, vabbè, andiamo a sentire il traffico, va, che è meglio. 24 mattino. Ciao Milan, ma io chiamo da Palermo e dico questo, ma se fosse successo a Palermo quello che è successo a Roma, ma qua avremmo sicuramente i carabinieri per strada, l'esercito, i posti di blocco, perché si sa, noi siciliani nasciamo mafiosi. Basta con queste affermazioni di ottimismo, di facciata, di questi pseudo manager, di questi politicanti che hanno oramai ridotto l'Italia nelle condizioni in cui si trova. Basta, l'ottimismo di facciata dovrebbe essere un reato punito a norma di legge. Bare Milan, Inget, già parliamo dell'Olimpiade del 2024, eh? Vieni, scordiamo già il dissesto geologico, chi te che morono per l'alluvione, certo, chi te già morero, che ne interessa. Ciao, Mare! Renzi, basta, li devi mandare in quel paese, se ti fai un partito per conto tuo, loro rimangono con il culo per terra. Ok, caro Vincio, tu hai dei problemi, ma hai dei problemi gravi, ma si sente anche quando si parla. Se Grillo non ha capito niente, ma la mafia, che credi che a Palermo ormai la mafia è lo Stato? È tu che non hai capito niente. Capito, Vincino? Ma è un altro scemo di quelli. No! Totali, insomma. No. Ecco, i giudizi sono stringati. Ma scientifico, la mafia è un'organizzazione, una siciliana che vive quartiere paese, e infatti ha detto quello lì, se succedeva a noi l'esercito, quante volte l'abbiamo Aspetta, che c'hai, Maurizio? Che hai una quantità di ascoltatori calciatori siciliani. Bene, siamo 5. Siamo lo sapevano che c'ero io e quindi via. Si sono preparati. Vabbè, ma no, ma perché la scorsa settimana Vincino ha vissuto una giornata un po' così, insomma, con il Movimento 5 Stelle. Com'è andata poi su Twitter? Ma devo dire, poi alla fine, insomma, sono che niente di che, non riescono a rompermi le scatole veramente. Vuoi alzare il tiro? Ma io assolutamente, guarda, vuoi sapere la vignetta di stasera? Sì. Guarda, e ce n'è una bellissima, no? Che vabbè, poi vabbè, sono tanto. Vabbè, ma la vignetta, dai, per radio, tienitela per stasera. No, dimmi un giudizio su Grillo in questo momento, un giudizio proprio sferzante. Proprio, guarda, è scafazzato totale, guarda. Cos'è che è? Scafazzato totale. Scafazzato. Scafazzato vuol dire scafazzato, come si può tradurre in siciliano scafazzato, che è italiano, no, sì. Praticamente è distrutto, Rodo. E non sa più che cosa fare, gli scappano da tutti i lati, gli scappano, gli cacano addosso, gli fanno, non è che c'ha 5 deficienti nominati incapaci di dire, di rispondere in qualsiasi modo. Praticamente Renzi si è fatto un altro partito, il PD grillino, ce n'ha 30 alla Camera che allora questa popola, diciamo, 5 deficienti sono il direttorio, i 5 direttorio. Deficienti e Renzi c'ha un altro partito, il PD grillino, il no PD, che Renzi. Sono il PD grillino, no, che sono 25 alla Camera di cui Currò e altri 5 sono già passati, gli altri passeranno tra domani e dopodomani, poi ti possono dire tutti i nomi. Vabbè, insomma, sì, vabbè. Tutti i nomi no, Tortorella. Anche la passionaria, quella là, romana, passionaria. Sì, la taverna. La taverna già ha fatto richiesta alla sezione del PD, non so dove. Vabbè, allora ti faccio sentire per punizione Fico, poi dopo così Tortorella rincara la dose sul Movimento 5 Stelle. Fico, i partiti bloccano il pacchetto anticorruzione. Fico, il presidente della Commissione Vigilanza Rai. Il pacchetto anticorruzione del Movimento 5 Stelle sia applicato, è da giugno 2013 che abbiamo presentato le normative che vanno in dire in questa direzione. Poi che cosa succede? Che si svegliano con mafia capitale, ma già lo sapevamo tutto ed è per questo che dobbiamo cambiare in tempo e questi partiti non permettono. Maurizio, dai, ti tocca dire qualcosa di buono sul Movimento 5 Stelle per par condicio. So. Ma a me fanno un po' pena. No, c'è colla, porca miseria. No, non mi sono mai piaciuti, non siamo lontani in migliaia di quelle maniere di pensare, neanche Cuba e americani. È stata un'occasione persa, una disastrosamente persa. Vabbè, adesso non è che sono spariti. Vabbè, dai, insomma. Dici? 4% in Calabria, 3% a Catania, dai, insomma, in tutte le parti dove si vota sono lo 0,0, dai. Vabbè, stiamo a vedere. Un'inconsistenza rattristante. Ma poi avessero avuto una canzone loro come quella a chi richiede la plana di incalabrabile esperienza che ti commuove, loro non hanno nessuna canzone. Niente. Non hanno una storia, non hanno niente, hanno Grillo, è una cosa insopportabile. Vabbè, ho capito, vabbè, ti farò passare un'altra bella giornata. Cioè, allora, Grillo, intanto arrivano subito, Grillo, Vincino Grillo, idiota. Non l'ha fatto Grillo. Grillo non ha fatto il male, il più grande giornale di satira del dopoguerra italiano. Non ha fatto un cazzo. Questo è il punto. Riparte con un grande tour internazionale. Sì, riparte con gli spettacoli. Senti un po', ma urlando così, Vincino, hai disturbato tua figlia? C'è mica tua figlia? No. Quelle sono tutte sveglie, incazzatissime e tutto. Ma non siamo svegli perché tra poco inizia. È per quello che così lanciato. È lanciatissima, sì, ha iniziato a vedere le figlie, diceva. No, ma quella canzone mi commuove a me. Sì. Ma vuoi passarci una figlia? No, le figlie stanno di là, lasciamole stare. Guarda hai paura che dicano qualcosa di male su di te? Mi menano quelle, sono giovani e forti. Io so dell'epoca di Che Guevara, insomma, dai. Okay, vabbè. Il brunetta del giorno, possiamo perdere il brunetta del giorno, eccolo qua, Brunettino, Brunetta. E che la riforma elettorale e la riforma del Senato, del bicameralismo paritario, devono andare di pari passo. Nessuno scambio sarà accettato e questo lo dico al mio amico Roberto Speranza, presidente dei deputati del Partito Democratico. Vabbè ragazzi, qua si sta facendo la storia, qua parliamo di queste cose, sentiamo ancora prima. Lei c'era? No, no, allora notizia assolutamente sbagliata, perché non c'è nessuna elezione del Presidente del Guardo Sarrabe, lei c'era, quanto guadagna? Quanto guadagna? No. Se ne pesa pure con me, Brunetta, ma che ha chiamato dico opportunista. Non so ah perché... già, è vero, c'è stata una polemica su Twitter, ti ha dato del ricco opportunista. Ricco, soprattutto ricco, dai. È ricco che ha fatto male. È ricco che ti ha infastidito, Vincino. No, ma no, perché poi in realtà non lo sono, questa è la disgrazia mia della mia vita, che penso che sia ricco e non lo sono, questo è, vabbè. Comunque se non è questo, ma non parliamo delle cose. No, private. Non parliamo, anche perché abbiamo finito, che dobbiamo fare? Finiamo allora con Ivona Nazionale, Iva Zanicchi, sentite che su Berlusconi è Ivona Zanicchi. È ancora un bel uomo, si presenta bene, ha ancora delle idee, è ancora giovane, intellettualmente, perché sì, gli anni ce li ha, ma insomma ragazzi, non uccidiamo le persone anziane. Ma no, ma chi lo vuole uccidere, per carità? Vabbè, Ivona Nazionale è un bel om. Rimetti la canzone cubana. Va dai. Bene, dai, rimetto la canzone cubana. Va bene. Allora, vi saluto con la canzone cubana. Vi devo salutare, vi abbraccio forte. Ciao. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti in punto, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi torneremo sulla vicenda raccontata ieri di questo insegnante a Torino che insegna in una scuola media e che è stato condannato in passato per una violenza sessuale ai danni di una bambina di 7 anni. Noi ieri ci siamo chiesti: ma com'è possibile una cosa del genere? Oggi vorremmo cercare di capirci qualcosa di più, detto che dalle istituzioni, insomma, si fatica ad avere una risposta. Comunque oggi torneremo con questa vicenda, su questa vicenda avremo Stefano Zurlo del Giornale, avremo l'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, avremo vari ospiti, come avremo anche ospite l'avvocato di Giancarlo Galan, condannato per la vicenda del MOSE, ha patteggiato, ma onorevole, stipendiato dalla Camera, presidente della Commissione Cultura. I regolamenti impediscono, ci sono sempre i regolamenti, le leggi impediscono alla presidenza della Camera di revocargli la presidenza della Commissione Cultura. Giancarlo Galan, attualmente ancora presidente della Commissione Cultura. Cercheremo di capirci qualcosa di più col suo avvocato. Ora andiamo a leggere i giornali. È giovedì 18 dicembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla BCE che sostiene le borse, Fed paziente sui tassi. Mentre molti giornali danno ampio risalto e la prima pagina alla svolta storica. Dopo 55 anni la Casa Bianca apre alle relazioni diplomatiche con Cuba. Crolla l'ultimo muro grazie al Papa, questo è il titolo del Corriere della Sera. Mentre Repubblica, Cuba, la caduta del muro. La Stampa, cade il muro tra USA e Cuba. Il Messaggero, svolta USA-Cuba, via l'embargo. Per il secolo XIX Obama fa pace con Cuba. E i titoli invece diversi, no? Anche Avvenire, crolla un altro muro e disgelo USA-Cuba. E così il manifesto che vi segnalo oggi costa 20 euro per sostenere la testata. Il titolo è L'Havana Club, insomma, come lo volete definire. Il Giornale invece: l'ISIS è sbarcato in Italia, vedremo che cosa, è un'inchiesta della procura di Palermo sul possibile infiltrazione di terroristi negli sbarchi. Mentre il Fatto Quotidiano: la politica commissaria alla procura di Palermo, la scelta del nuovo procuratore, Una vicenda che interessa veramente pochi intimi, mentre Libero, Renzi ha tre assi da giocare, produzione su, tassi e petrolio giù. Voglio però partire dalla cronaca nera e dalla cronaca giudiziaria. Ieri c'è stato un processo importante, come avete sentito, in appello, dopo due assoluzioni, questa volta è arrivata la condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi. L'omicidio è quello di Garlasco, 7 anni dopo l'omicidio arriva la prima condanna. In appello 16 anni di reclusione senza aggravanti, ecco, molti dicono perché non è in carcere, non è in carcere, al momento non va in carcere, ci vorrà la Cassazione. Poi, perché 16 anni si è ritenuto colpevole? Qualcuno dice sono pochi, la procura aveva chiesto 30 anni. Allora, intanto ha scontato di un terzo del previsto dal rito abbreviato, quindi nella contabilità della giustizia gli è stato tolto un terzo della pena. E poi gli è stata non riconosciuta l'aggravante. Certo, scrive Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere della Sera, a vedere le scene anche ieri, delle foto della villetta con tutto quel sangue, eccetera, ci si può riflettere. Comunque questo è tecnicamente il motivo per cui si è arrivata la condanna di 16 anni. La parola responsabile dal fondo dell'aula si sente appena, racconta Giusy Fasano sul Corriere della Sera. La Corte dichiara Alberto Stasi responsabile. 7:30 di ieri, pomeriggio passato a pregare che le ore passassero in fretta, che finisse finalmente quel tempo sospeso ad aspettare di sapere in che direzione sarebbe andata la sua vita. Condanna ad anni 16 di reclusione. Alberto è lì, una statua immobile, in piedi davanti ai giudici nel suo maglioncino verde, colpevole per la prima volta dopo le assoluzioni in primo e in secondo grado. 16 anni per aver ucciso la fidanzata la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, vicino a Pavia. E poi il risarcimento, 350.000 euro a ciascuno dei genitori di Chiara, Rita e Giuseppe, e 300.000 euro a suo fratello Marco. Fanno un totale di 1 milione tondo. Tra l'altro Giusy Fasano racconta la camminata, il corpo sulle scale, la bicicletta, le fotografie, insomma tutti gli indizi che hanno portato alla condanna. C'è anche un'intervista a Rita Poggi, la madre della vittima, che per la prima volta dopo il processo rilascia, dopo l'inizio del processo rilascia qualche dichiarazione, sorride un po' stordita alle domande dei giornalisti, lasciatemi un minuto in pace, poi dice dopo 7 anni abbiamo avuto giustizia. Ho sempre detto a Chiara che sento nei miei pensieri, tu che puoi, guida i giudici, e lei l'ha fatto. E aggiunge, non mi sento di dire nulla ad Alberto, è da tempo che ho rotto i ponti con quel ragazzo, è cambiato tutto all'inizio, è stato così, non volevo credere alla sua colpevolezza, ho preso coscienza però man mano delle sue responsabilità, il giorno dell'arresto è cambiato, da lì in poi tornare indietro per me non è più stato possibile, sono emersi sempre più elementi, ogni volta ne emergevano di più. Come invece si difende Alberto Stasi? Beh, poche parole affidate ai legali, come racconta Paolo Berizzi su Repubblica, pagina 25. Serviva un colpevole a tutti i costi, hanno pure cancellato il mio alibi dal PC, ma io sono innocente. Vabbè, trovate molti articoli ovviamente su questa vicenda sui giornali. Vicenda giudiziaria invece che ci si sposta a Torino e che crea molte polemiche anche in questo caso, perché per l'agguato Notav di un anno fa sono stati condannati, ma per reati minori, ed è caduta l'aggravante di terrorismo nei confronti appunto dei militanti Notav che hanno fatto un assalto al cantiere di Chiomonte un anno fa. Agguato Notav, tutti condannati, ma per i giudici non è terrorismo, cosa che contestava invece la procura. Questo è il titolo di pagina 16 della Stampa. Massimiliano Peggio racconta, assolti perché il fatto non sussiste. Per un attimo la liturgia processuale coglie di sorpresa i 4 Notav rinchiusi nella cella degli imputati e da un anno in carcere. Certo, cade l'imputazione più grave, restano comunque le condanne per danneggiamento e violenza pubblico ufficiale. Dunque 3 anni e 6 mesi di reclusione più 5.000 euro di multa inflitti ai 4 attivisti Notav: Claudio Alberto, Nicolo Blasi, Mattia Zanotti, Chiara Zenobi, 3 di Torino, 1 di Milano, tutti in carcere da un anno per aver partecipato all'attentato compiuto bersagliando il cantiere con bottiglie Molotov e razzi. C'è lo sdegno del ministro Lupi che dice, ma come? I giudici hanno emesso la sentenza e dovrebbero muoversi, andare in mezzo alle imprese che hanno subito minacce vere. Se non ha finalità terroristiche, incappucciarsi, organizzare l'attacco allo Stato, qualcuno mi deve spiegare che cosa sia. Sta di fatto che la polemica è su questa mancata accusa di terrorismo. Viene intervistato da Repubblica, da Paolo Griseri, il senatore Stefano Esposito, abbiamo avuto ospite varie volte, colui che è sotto scorta proprio per le minacce subite dai Notav. Lei vive sotto scorta da 2 anni e lui dice nessun pericolo terroristico, allora spiegatemi perché ho la scorta. Vabbè, c'è da dire che non è che se uno ti minaccia magari c'è la scorta, però questa minaccia non per forza deve avere il carattere terroristico. Comunque, dice il senatore Esposito, le sentenze parlano da sole, le motivazioni le scopriremo, ma la sentenza conferma che si tratta di teppisti che hanno agito utilizzando metodi paraterroristici. Mi sono sempre guardato bene dall'entrare nella diatriba se si tratti di terrorismo o no. Non mi preoccupa questo, ma mi preoccupa che ci siano intellettuali ed esponenti del movimento che considerano una vittoria una condanna a 3 anni e mezzo di carcere per porto d'arma da guerra e danneggiamento aggravato. Effettivamente ha colpito anche me. Cioè c'erano le esultanze degli amici di questi 4 soggetti in tribunale, esultavano dopo la sentenza. Certo è caduta l'aggravante di terrorismo, ma si sono beccati 3 anni e 6 mesi. Cioè, voglio dire, non è che hanno detto i giudici che sono degli stinchi di santo che possono andare in giro. E questi esultavano, evidentemente, per una condanna a 3 anni e 6 mesi. E poca cosa, poca cosa. Vabbè, ma siamo al momento dell'articolo. Mani sul volante, l'articolo che ci fa pinzare di questa giornata. Per l'ennesima volta vince il giornale con Paolo Bracalini e Maria Teresa Conti stanno portando avanti una inchiesta interessante sul giornale, sul crack delle società partecipate, quelle pubbliche, quelle dove tanto paghiamo tutti un po' noi, anche tu Peter Bescapè, anche tu Lorenzo Nespoli, la tua quota da 10 centesimi al giorno le metti per il crack e il rosso di queste società. Il record è a Bari, gli autobus municipali sbandano sui permessi. Pensate che all'AMTAB di Bari, che ha una perdita in società di circa 1.400.000 euro l'anno, su 450 autisti, ben 150, dunque 1 su 3, 150 usufruiscono dei permessi speciali per assistere i familiari disabili previsti dalla legge 104. Per carità, una legge sacrosanta, una legge giusta, quella che permette di stare a casa 3 giorni al mese per assistere un familiare che ha bisogno, una legge intoccabile, bella. Non sono un po' troppi statisticamente, 150 su 450. Accidenti, che sfortuna questi autisti dell'AMTAB di Bari, tutti con un familiare o 1 su 3 disabile. Che sfortuna nera. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo. Don Alejandro Milan è il soro dell'informazione. E mi sembra giusto per allargare un po' gli orizzonti, allargare un po' le nostre menti. Per una volta, devo dire, i giornali nelle prime pagine si dedicano giustamente a quella che è la svolta storica, da qui voglio partire, svolta storica di ieri, dopo 55 anni, cade il muro d'acqua, si dovrebbe dire, tra Cuba e Stati Uniti. Per carità, non è che cade tutto di colpo, ma è una svolta importante perché Obama e Raul Castro hanno annunciato la riapertura, in qualche modo, dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Cuba. Lo hanno fatto, Obama, con un discorso che è già diventato storia. Ed entrerà nella storia con quella frase, soprattutto, todos americanos, no? Siamo tutti todos somos americanos, tutti siamo americani. Quella frase che scrive il Foglio, giustamente riecheggia già il Ich bin ein Berliner di Kennedy a Berlino, perché quando si fa la storia bisogna poi trovare delle frasi, no? Eccolo qui il discorso di Barack Obama che Repubblica mette in prima pagina. Oggi i rapporti degli Stati Uniti d'America nei confronti del popolo cubano cambiano, con un cambiamento quanto mai significativo della nostra politica in oltre 50 anni. Poniamo fine a un criterio superato che per decenni ha fallito e non ha portato avanti i nostri interessi. Ora inizieremo a normalizzare i rapporti tra i nostri due paesi. Grazie a questi cambiamenti abbiamo intenzione di creare maggiore opportunità per il popolo americano, il popolo cubano, dare inizio a un nuovo capitolo nella storia delle nazioni delle Americhe. Certo, ha ricordato Obama nel suo discorso, questo è stato favorito anche dal fatto che Cuba ha rilasciato una persona, un cooperante americano, subappaltatore dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, che era detenuto da 5 anni a Cuba. In cambio sono stati lasciati dei prigionieri dall'America. Insomma, direi che la storia però c'è, e magari i più giovani, quelli che non sanno, quelli che non hanno visto i film, non hanno letto i libri di storia, quelli che sono nati dopo non sanno che, come racconta, giustamente ricorda Vittorio Zucconi oggi su Pubblica, per questa vicenda Stati Uniti e Cuba, con tutte le implicazioni, la Russia, la Baia dei Porci, abbiamo rischiato la guerra nucleare in un passato non lontano. Ecco il senso profondo del cambiamento storico che fa dire a molti: è davvero la fine definitiva della guerra fredda, quello che sta succedendo a partire da ieri. L'isola e gli Yankees, 50 anni di folle duello, ma ora Raul archivia la rivoluzione. Questo è il titolo di Repubblica. Pagina 6 racconta Vittorio Zucconi la marcia della follia tra Stati Uniti e Cuba, che ci portò poche ore dall'olocausto nucleare, si è fermata ieri sera a invertito cammino quando Barack Obama e Raul Castro hanno demolito all'unisono un altro rudere della guerra fredda, il muro d'acqua di 140 chilometri che divide la Florida dall'isola. È stato necessario il grande coraggio da parte di un Obama che rischia quello che gli rimane della scarsa popolarità senza incassare nulla. E soprattutto coraggio da parte di Raul, per anni il detestato fratello, il capo della repressione interna, il volto sgradevole dei Castro. È stato lui a trasformarsi in colui che ha cambiato la storia dell'isola, aperto le prime crepe nella mistica e nella pratica del regime, che hanno permesso, con lo scambio di cosiddette spie e con la mediazione del Papa, la svolta sancita oggi. Ecco, la mediazione del Papa. In tutto questo il Corriere mette il titolo in prima pagina: è stato centrale la diplomazia del Vaticano, come riconoscono tutti i giornali. Lo racconta bene Gian Guido Vecchi a pagina 6 del Corriere della Sera. Telefonate e lettere, ecco la tela di Francesco. La premessa risale al 59, quando Fidel Castro aveva preso il potere, Giovanni XXIII era Papa da un paio di mesi, c'erano missionari, suore in fuga da Cuba. E Loris Capovilla, che allora era il segretario del pontefice, raccontò al Corriere che Roncalli, il Papa, era furibondo perché diceva: non si scappa mai e mai si interrompono i rapporti diplomatici. Ecco, quando il segretario di Stato Vaticano attuale, Pietro Parolin, e il suo omologo americano, il segretario di Stato John Kerry, si sono incontrati lunedì mattina, era già tutto deciso. Non restava che confermarlo a chi lo aveva reso possibile. A ottobre, mentre il mondo intero guardava il sinodo, in Vaticano si incontravano in gran segreto le delegazioni di Stati Uniti e Cuba per quella che Papa Bergoglio per primo, con vivo compiacimento, definisce una decisione storica. È una finezza della storia che tutto questo sia accaduto nel giorno del 78esimo compleanno di Papa Francesco. Però non è un caso che proprio il Papa, arrivato quasi dalla fine del mondo, primo pontefice latinoamericano, abbia portato a compimento un processo che si è risolto negli ultimi mesi, ma la Chiesa ha sviluppato da anni. E si racconta appunto tutta la tela, le lettere che Papa Francesco ha spedito a Obama e a Raul Castro nello scorso agosto. Insomma, tutta la tela diplomatica che ha portato a questa decisione storica. Per carità, poi, come tutti i procedimenti storici, non è che da un giorno all'altro cambia tutto. Tra l'altro protestano e si registrano a Miami le proteste degli anticastristi, quelli che dicono: state aprendo a un regime dittatoriale, state facendo un patto con il diavolo. C'è insomma anche chi non è d'accordo, ma la storia non si ferma. Per rimanere nelle notizie dall'estero, oggi c'è sui giornali ampio risalto anche una decisione dell'Europarlamento. L'Europarlamento ha preso una decisione che hanno preso anche vari parlamenti nazionali europei, ma che ora con una risoluzione diventa ancora più importante perché impegna tutta la comunità europea. E cioè la risoluzione in cui in linea di principio si riconosce lo Stato di Palestina, e soprattutto, forse la decisione più importante, è stata tolta per motivi procedurali Hamas dalla lista europea delle organizzazioni terroristiche. Ecco qui il Corriere della Sera, pagina 21. Sì dell'Europarlamento alla Palestina, Hamas tolta dalla lista dei terroristi. È una decisione che ha reso furibondo il premier israeliano Netanyahu, che ha definito sconvolgente esempio di ipocrisia europea quello che è stato adottato ieri al Parlamento europeo. Un'indicazione, ha detto Netanyahu, che molti nel continente non hanno imparato nulla dall'Olocausto. Dichiarazioni molto forti che creano forse anche dei problemi diplomatici, questo adesso lo vedremo. Comunque la risoluzione dell'Europarlamento è importante. Se vogliamo rimanere in campo internazionale, ma ci riguarda molto da vicino, l'Italia ha deciso di richiamare l'ambasciatore italiano, il nostro ambasciatore, dall'India per la vicenda dei Marò. Una vicenda che continua, il governo si avvia a chiedere l'arbitrato internazionale, anche se tutti i giornali raccontano che in questi 3 anni sono sempre stati più i pasticci, gli errori, le cose evidentemente poco chiare e sbagliate che sono state fatte in questi anni, altrimenti non ci sarebbe una situazione così complicata. Comunque, come vedete, notizie soprattutto dall'estero, oggi mi piace così. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, anche io ho una notizia nel mio piccolo, come dire, ma insomma mica tanto piccolo, dall'estero si fa per dire. Ho il numero della legge sulla voluntary disclosure, sei contento? Quella per, appunto, per i capitali dall'estero, in questo senso mi collegavo a quello che stavi dicendo, si chiama la legge 186-2014, sei contento di saperlo? Non si può giocare all'otto, sono 3 cifre, a meno che tu abbia delle indicazioni, non so, possa sapere come smontare questo 186 per giocarlo all'otto, al superenalotto. Poi se io... 8 per 6. Vedi tu, comunque è in vigore dal 1 di gennaio, puoi riportare i 2 eurini che ti sono caduti oltre confine a Chiasso, Zurigo, non so dove, insomma, se ti fossero anche caduti in Italia sappi che insomma la procedura consente anche di riportarli in chiaro, tutti i particolari sulle pagine di Nove Tributi? No, una cosa trabocchetto. Avevo capito che era un trabocchetto. Perdonami, no, ne parliamo già nelle primissime pagine del Sole 24 Ore di oggi. La norma è molto importante, ovviamente, ci si aspetta anche che sia importante per le casse dello Stato, nel senso che dovrebbe riportare appunto in chiaro. Tra l'altro, a proposito, la UE ha deciso, e questa volta sì, ne riferiamo in Norme Tributi, di fare un'inchiesta sui tax rulings, cioè hai presente quegli accordi tipo Lussemburgo, per cui le aziende hanno dei... Ecco, adesso la UE si è decisa a fare un'inchiestina per verificare un pochino, ma quanti ce n'è di questi tax rulings, lo sapremo, lo scopriremo solo aspettando quello che l'Unione ci dirà. Questo sì, lo riferiamo nelle pagine di Norme e Tributi. Ottimo. Mentre in quelle di Imprese e Territori ti parliamo ancora del contratto dei bancari. Allora, disdetto del contratto il 31 dicembre, ma fino al 1 aprile c'è una finestra per trattare tutti i particolari nelle pagine di Imprese e Territori. E poi una cosa che ti voglio segnalare, i fondi alle università. Abbiamo la tabella con l'assegnazione dei fondi alle università statali oggi sul Sole 24 Ore. È molto importante perché sono cambiate i criteri per l'assegnazione, quindi sappi che l'università che avrà più fondi è quella di Bergamo, tutti a Bergamo a studiare, ci sono più fondi a Bergamo, quindi si può utilizzare questo passaggio a Bergamo. L'università a cui risultano meno fondi è quella di Messina, ma diciamo che la classifica non è così da nord-sud come talvolta accade. E poi ti voglio dire che si dovrebbe arrivare alla chiusura della vicenda Alitalia Etihad, ma questo lo trovi nelle pagine di Finanza naturalmente, tra domani e il 23, quindi insomma prima di Natale, si sistema tutta la complicata vicenda del passaggio dell'ingresso di Etihad in Alitalia. Altro non ti vuol dire, sempre una cosa di movimento, ricordati che oggi è giovedì, ci sono ovviamente le tasse del giovedì, questa volta parliamo di acconto IVA, ma ti volevo lasciare con Alitalia perché appunto essendo una cosa di movimento ben si adatta alla parola che sto per dirti, traffico. Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Il Rossello Brescio non è male. Un abbraccio come sempre a Rossella Brescia. E che dire, la corruzione costa lo 0,8% di PIL l'anno. Questo è il Centro Studi Confindustria che lo ha detto ieri. Trovate tutte le stime, i dati a pagina 5 del Sole 24 Ore. Si tratta della cifra di 13 miliardi di euro l'anno che se ne vanno per corruzione. Certo, sono stime non facilissime da calcolare al centesimo, ma il dato è molto molto molto duro. E da Roma e dall'inchiesta di Roma ancora escono nuovi dettagli. Eccolo qui, Nadia Cerrito, cioè la segretaria di Buzzi, uno degli indagati, ha messo a disposizione degli inquirenti, fanno sapere tutti i giornali, l'agenda nera, quella in cui si tenevano tutti i soldi e delle mazzette, delle presunte mazzette, bisogna dire così, per garantismo ai politici. E sono già celebri alcune intercettazioni. Allora mi servono 2,5 per la cicciona. Non si sa chi è la cicciona. 2,5, immagino 2,005, dicono gli inquirenti. Poi 1,005 per Coratti, che è Mirko, ex presidente del Consiglio Comunale. 1 per Figurelli, Franco, capo segreteria di Coratti, appuntano gli investigatori. 1,000 per il sindaco di Sant'Oreste e Sossette. E se alla cicciona non glieli do? 5,6? No, non glieli do alla cicciona tutti questi. E poi ci sono anche i soldi tipo a quello che non ci rappresenta politicamente, posso dirgli questo, un chip per buona volontà, così gli diamo il chip come a poker, però sappia che non ci rappresenta politicamente. Vabbè, ecco il libro nero delle mazzette, questo lo trovate su Repubblica, il Corriere, sul Fatto Quotidiano, un po' ovunque questa vicenda. A proposito di inchiesta giudiziaria, invece ce n'è un'altra che un pochino preoccupa e che viene messa dal Giornale con grande enfasi come titolo di prima pagina. È un'inchiesta della Procura di Palermo. Il Giornale, scrive Stefano Zurlo, aveva già lanciato questo allarme qualche tempo fa. Il titolo di prima pagina del Giornale oggi è «L'ISIS è sbarcato in Italia». Ecco, voglio dire, magari un po' anche questo allarmistico come titolo. In realtà la Procura di Palermo sta indagando se vi siano stati negli sbarchi durante il periodo di Mare Nostrum anche degli sbarchi, come dire, un po' sospetti, un po' pericolosi, ben più che pericolosi. Allarme sugli sbarchi fra gli immigrati anche infiltrati dell'ISIS. Questa è l'apertura di un'inchiesta a Palermo, un'indagine dopo le segnalazioni dei servizi segreti. I potenziali terroristi sarebbero libici e siriani. È un'inchiesta aperta da Leonardo Agueci, attuale numero uno dell'ufficio, che indaga sui terroristi mischiati tra i clandestini. Anche il Messaggero dedica una pagina a questo tema. Terroristi tra i migranti e allarme ISIS. Dopo quella di Catania, anche la Procura di Palermo apre un'indagine per infiltrazioni sui barconi arrivati in Sicilia. La segnalazione è partita dai servizi segreti. A proposito di Alitalia, visto che prima citava Alitalia il nostro Mauro Meazza, Lucio Cillis su Repubblica oggi fa un'intervista a James Hogan, che è il numero uno di Etihad e vicepresidente della nuova Alitalia, che parla di pagina 17. Racconta, utilizzando la metafora del rugby, lui grande ex giocatore di rugby, dice: quando giochi al rugby sai che prima di entrare in campo devi prepararti al meglio, e io voglio vincere questa partita. It's business, voglio vincere la partita della qualità di Alitalia, dell'alta qualità e del maggior numero di voli. Titolo dell'intervista: Linate e Malpensa saranno potenziati nella mia Alitalia, alta qualità e più voli. Così James Hogan spiega la strategia per il rilancio della compagnia italiana: aumenteranno le rotte, cresceranno gli standard di ospitalità per riportare il marchio a livello globale, la rete sarà mondiale con più collegamenti in America Latina e con l'Asia, SkyTeam garantirà la presenza negli Stati Uniti e in Italia saranno rafforzate le tratte con le grandi città. Potenziati gli scali di Malpensa e Linate, l'obiettivo insomma del gruppo arabo è continuare a investire in Europa senza fare nuove acquisizioni, ma cercando di conquistare i flussi turistici in aumento nei paesi emergenti. Riguardo agli esuberi, risponde James Hogan, Noi siamo abituati ad assumere, non a licenziare. Non è mai piacevole veder mandare a casa dipendenti, ma siamo costretti a chiedere un ridimensionamento per Alitalia, perché altrimenti in pochi mesi vi sarebbe stata una nuova crisi con conseguenze occupazionali peggiori. Ora starà ad Alitalia giocare la sua partita, sapendo che il suo piano industriale potrà aver successo solo a determinate condizioni, e la dimensione corretta è una di quelle cruciali. Parla di tante strategie in questa intervista a Repubblica, James Hogan. E poi che vi devo dire? Avete notato l'assenza del chiacchiericcio della politica in questa rassegna stampa di oggi? Ho cambiato un po' qualcosa. Esteri, Cuba, Israele, la Palestina, l'economia, l'Italia, la cronaca. Vi è mancato qualcosa? Ecco, per dire, l'articolo del chiacchiericcio della politica, il retroscena di Francesco Bè e Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 10, inizia così. Un uomo con il bavero alzato esce dalla sede di Forza Italia martedì, percorre 150 metri a piedi e si infila non visto nel portone di Palazzo Chigi. È Denis Verdini, la sua ultima missione in qualità di sherpa di Berlusconi prima di lasciare ogni incarico. Ad attenderlo il braccio destro del premier Renzi, Luca Lotti. Inizia così questo incontro, un po' di soppiatto tra Verdini e Lotti. Anche il Corriere ne parla. Per la trattativa. Su che cosa? Boh, non lo so, adesso non chiedetemi tutto. Insomma, leggete questi chiacchiericci della politica. Una pagina sul Corriere ancora, l'Italicum, il blitz per andare in aula. Ah, ecco, la trattativa sarebbe questa per Repubblica. Approvare l'Italicum subito a gennaio, ma mettere una clausola che entrerà in vigore la nuova legge elettorale dal settembre 2016. Guardate l'articolo del Fatto Quotidiano, una intera pagina. Bande e correnti, così si organizzano i franchi tiratori. Un viaggio nel Parlamento per sapere chi starà con chi, se qualcuno tradirà Renzi oppure no. Eccolo qua. Oppure Berlusconi che dice Padoan per il Quirinale non ci provino, così dice ai suoi. E poi il meglio del meglio è una pagina intera di intervista a Maria Rosaria Rossi di Forza Italia, che a pagina 13 della stampa dice bisogna ripristinare i contributi pubblici ai partiti. Mi è mancata tanto il racconto della retroscena della politica oggi dai giornali, ma non lo so, ditemelo. Intanto, per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi lo diamo al Fatto Quotidiano, ma noi siamo contenti che il Papa abbia festeggiato i 78 anni. Gianluca Roselli però racconta lo spettacolo dei 3.000 tangheri provenienti da tutta Italia che hanno ballato un tango in onore del Papa. Ma chi se ne frega? Mattino. Sono le 8 e 18 minuti, cari ascoltatori. Allora, devo dire che io vi confesso, sono un po' basito, un po' perplesso, da quando due giorni fa sul giornale è stata pubblicata la notizia di un professore che è stato condannato in passato, circa 15 anni fa, per abuso sessuale su una bambina di 7 anni. E poi, dopo aver patteggiato una pena definitiva, dopo non aver scontato un solo giorno di carcere, è diventato professore di ruolo, attualmente insegna alle scuole medie all'Istituto Fermi a Torino. Questi i fatti. Sono un po' basito, e vabbè, già qua si aprono mille domande, cercheremo di rispondere su come diavolo sia possibile che nessuno controlli una cosa del genere. Sono basito però perché pensavo che quell'articolo e la trasmissione che abbiamo fatto ieri e che oggi faremo, spero che oggi qualcosa si smuova, avrebbe scatenato, oltre che l'indignazione dei nostri ascoltatori, ce n'è stata molta, anche una qualche reazione ufficiale. Invece dal Ministero al momento non trapela nulla, silenzio. Silenzio anche dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, stiamo contattando da due giorni il dottor Fabrizio Manca, che è responsabile, il quale però dice: stiamo indagando, stiamo facendo indagini interne. Silenzio anche dalla scuola al momento. Abbiamo contattato ieri la nostra Elisabetta Fusconi, ha contattato la dirigente scolastica dell'istituto, la dottoressa Fusco, almeno ci ha provato. La dottoressa Fusco non è in ufficio perché è stata convocata all'ufficio scolastico territoriale. Mi perdoni, è stata convocata all'ufficio scolastico regionale per la vicenda del professore condannato in via definitiva per pedofilia che lavora nella vostra scuola? Certo, è stato convocato per questa questione, però la questione è che noi abbiamo letto sui giornali come l'hanno letta tutti, ma io non so dirle altro. Provate a telefonare direttamente all'ufficio scolastico territoriale, cercate di parlare con loro allora. Cercate di parlare con loro. Noi insomma cerchiamo di parlare con gli uni con gli altri, al momento nulla. Intanto saluto Stefano Zurlo del giornale, buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno. Tu hai portato alla ribalta questa vicenda. E saluto e ringrazio per essere qui l'assessore all'istruzione della regione Piemonte, Giovanna Pentenero. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Ben trovata. Zurlo, intanto anche tu hai provato, cioè, insomma c'è una sorta di, per carità, le indagini, ma cosa c'è da indagare? Cioè i fatti che ci ha spiegato anche ieri l'avvocato della vittima di questa bambina di 7 anni che ora è diventata maggiorenne. Ci ha spiegato che insomma c'è poco da vedere i fatti sono questi, c'è un tribunale che sancisce tutto, no Stefano? Sì, la vicenda purtroppo dal punto di vista giudiziario si è trascinata per tantissimi anni ed è arrivata a conclusione solo pochissime settimane fa quando a pezzi e bocconi, alla fine finalmente, dopo che gli era stato pignorato lo stipendio, un quinto dello stipendio come prevedeva la legge, questo signore si è deciso e ha pagato quello che doveva pagare alla famiglia della vittima. E però poi diciamo tutti gli aspetti che accennavi tu dell'indagine interna, che è surreale a distanza di tanti anni, sono esattamente la realtà. Purtroppo le istituzioni ci vengono a dire, dopo tutta questa storia interminabile, umiliante, vergognosa, ci vengono a dire che c'è bisogno di un'indagine interna, perché evidentemente loro non lo sanno quello che è successo. Ma per carità, ma io ci credo che non lo sanno, cioè la cosa incredibile, io credo che non lo sappiano, cioè molti, per esempio c'è scritto un ascoltatore a dire: ma come, sono entrate in vigore le norme cosiddette antipedofilia, cioè, ma sono entrate in vigore da aprile credo, per cui ci vuole un certificato da verificare per chi lavora a stretto contatto con i minori, se io devo assumere una persona, per esempio c'è scritto un ascoltatore, io sono responsabile di una cooperativa, se devo assumere qualcuno che lavora con i minori devo andare in tribunale a informarmi, ma questo vale per da quel momento in poi, per il passato no, e quindi questo professore evidentemente era di ruolo prima. Intanto però, assessore Pentenero, lei conosceva questa storia, non so, l'ha appresa, che effetto le suscita e che poteri ha lei come assessore regionale? Non credo moltissimi. Beh, intanto ovviamente non conoscevo questa storia, l'ho appresa dai giornali ed è evidente che questo suscita un grosso stato di preoccupazione. Noi, la regione non può fare nulla, quello che può fare che abbiamo fatto è chiedere la massima attenzione da parte dell'ufficio scolastico regionale e quindi del ministero. Io credo però che sia corretto che il ministero in questo momento dichiari di cercare di capire che cosa è successo, perché intanto questo insegnante è stato assunto nel 2001 e non nel 2011 come è stato detto dai giornali. Questo è il primo dato certo che sembra emergere dall'analisi che hanno fatto, e quindi è stato assunto nel 2001. Quindi è da tanti anni che opera nella scuola. Sì, certo, però prima che avvenisse, allora io credo sia importante su queste cose provare a distinguere quello che è lo stato emozionale, la preoccupazione che desta una notizia del genere, sulla quale, come dire, siamo ovviamente tutti preoccupati, intanto da un punto di vista così di cittadino e forse in primo luogo come rappresentante delle istituzioni. E questo è un primo fatto. Il secondo fatto è cercare di ricostruire quello che è successo, perché è evidente che se gli uffici responsabili, quindi il ministero, fosse stato conoscente del fatto, sarebbero intervenuti. Questo certamente, la cosa che, però, la cosa che preoccupa tutti è come è possibile che non si vengano a sapere queste cose. Cioè... Questo è possibile, perché quello che stanno cercando di verificare intanto, e poi ci terrei a sottolineare un altro aspetto che forse da un punto di vista, come dire, legato alla quotidianità della scuola, questa persona in questo momento non sta lavorando, non è, ha chiesto un'aspettativa e quindi non è all'interno della scuola. È stato assunto nel 2001 e evidentemente non c'è stato un passaggio di informazioni. Cioè lei ci sta dicendo, mi scusi, che è stato assunto nel 2001, la condanna sì. È avvenuta dopo, perché... La condanna è avvenuta dopo, mi pare, nel 2007, questo non lo so, però certo, questa... Ma nel 2007. Sì, qua Zurlo le sa queste cose perché ha seguito, Stefano è così. Sì, cioè, immagino, io, certo. No, no, ma... Per carità, io voglio solo dire all'assessore che quando l'avvocato della famiglia ha cercato un sistema per costringere questo signore a pagare, visto che dopo che non si era presentato nemmeno a un'udienza del processo, appunto non pagava nemmeno la provvisionale stabilita dai giudici, e stiamo parlando anno dopo anno, goccia dopo goccia, una storia, come dicevo prima, interminabile, gli è stato risposto... Lui ha cercato un luogo, un conto, uno stipendio da pignorare e gli hanno detto dalla provincia che questo tizio risulta assunto con contratto a tempo indeterminato dal 2011, perché questa situazione si è verificata... Ah, forse prima era precario, forse sì, prima... ecco, quindi è stata una sorta di promozione, mettiamola così, vogliamo essere un po' cattivelli, di promozione che è avvenuta dopo la sentenza definitiva. Ci sarebbe, ma ci sarebbe da capire... che lo Stato non parla con lo Stato. Esatto, cioè la questione è questa. La pubblica amministrazione non scambia informazioni. No, ma la questione infatti, Stefano, è questa, cioè che al di là, come correttamente ci ha detto l'assessore, nel 2001 forse è stato assunto dalla scuola in forma precaria, nel 2001... pare, però su questo, come dire, credo sia corretto che il Ministero dica stiamo facendo delle indagini per capire cosa è successo, perché quello che è stato affermato un attimo fa, ovvero la sensazione che lo Stato non parli, la mano sinistra non parli con la mano destra, per essere un po' più semplici, è quello che sembra un po' a tutti. La persona in oggetto però fece un concorso nel 1998, questo concorso lo superò e risulta essere assunto nel 2001, però questi sono i primi dati che sono emersi. È evidente che bisogna capire in quale pezzo della pubblica amministrazione si è inceppato il meccanismo. Certo, ma perché assessore, mi perdoni, nel momento in cui avviene una condanna anche successiva, cioè dopo mezzo secondo, questa persona in uno stato normale, una condanna di un tribunale di questo tipo, cioè un patteggiamento per un abuso sessuale su una bambina di 7 anni nei confronti di una persona che lavora a stretto contatti dei minori, dovrebbe essere dopo un secondo comunicato bloccate subito questa persona, ma mi sembra una cosa... Però posso assicurare che il Ministero della Pubblica Istruzione, gli uffici territoriali, non erano a conoscenza di questo fatto e quindi vuol dire che il passaggio di informazioni da qualche parte si è fermato. E questa è la cosa incredibile. È la cosa incredibile ed è la cosa sulla quale bisogna accertare le responsabilità e capire che cosa è successo. Anche perché parliamoci quindi... chiaro, cioè se Stefano Zurlo, se questo avvocato della famiglia della bambina allora di 7 anni abusata non avesse deciso di dire ok, ora basta, perché se noi non tiriamo fuori questa storia in maniera pubblica, questa vicenda rischia anche di danneggiare nel caso anche altri minori. Cioè se non ci fosse stato questo passaggio, non tutto sarebbe passato in carrozzeria, Esatto, questo è il punto, cioè lo Stato non sa cosa fa lo Stato, la pubblica amministrazione non sa cosa fa la pubblica amministrazione, qui abbiamo uno Stato che con la mano sinistra paga un insegnante, il quale con la mano destra gli pignorano lo stipendio perché appunto deve dare dei soldi che non si è nemmeno degnato di dare, tenendo un comportamento che obiettivamente è inqualificabile rispetto appunto a una famiglia che è stata oltraggiata. Tra l'altro la bambina non aveva 7 anni ma ne aveva ancora di meno, in realtà ne aveva quasi 5 e mezzo, 6. Ecco. Questo aggrava, se possiamo, ma sono totalmente sui giri che ho fatto passare in carrozzeria quello che deve passare in cavalleria, ma perdonatemi, ma un po' di rabbia anche per capire come mai non ci sia stata finora una reazione molto forte, ufficiale. C'è comunque Alessandro da Venezia che ci ha chiamato, ci ha scritto di questa vicenda della cooperativa sociale. Alessandro, buongiorno, lei è direttore di una cooperativa sociale, giusto? Buongiorno, sì, di una cooperativa sociale di Pordenone. Sì. Dello scorso aprile l'Italia ha recepito una direttiva dell'Unione Europea, e noi datori di lavoro abbiamo l'obbligo di recarci in tribunale per verificare se la fedina penale delle persone che lavorano, degli educatori che lavorano a contatto con i minori, è pulita o meno. Altrimenti c'è una sanzione amministrativa a carico appunto della certo, della le norme cosiddette antipedofilia che sono subentrate da poco e... Esattamente, quindi da aprile a settembre sono cambiati 3 moduli ovviamente, prima dovevamo chiedere anche agli educatori che intendevamo assumere e il loro consenso, adesso ci possiamo muovere in via autonoma recandoci in tribunale. Mia moglie lavora a scuola, anche lei deve presentare la dichiarazione di fedina penale pulita, so però chi controlli. Ma è un'autocertificazione, guarda, ce l'hanno detto ieri altri professori, è un'autocertificazione, poi di fatto nessuno controlla, ma anche perché se ci fosse stato il controllo, bisogna pensare bene, nessuno avrebbe permesso a una persona del genere di insegnare un giorno in più. E la questione qui, come sta spiegando anche l'assessore Pentenero, è cercare di capire dove si sia inceppato questo meccanismo per cui è permessa a una persona di insegnare in queste condizioni. Tra l'altro, assessore, lei, vogliamo ribadire, perché lei ci ha detto, molti ci chiedono, ma dov'è questa persona? Cioè, lei ci conferma, non sta insegnando, cioè non frequenta più la scuola in questo momento, è stata sospesa. Ci aiuta a capire, assessore? No, lui in questo momento non insegna perché ha chiesto un'aspettativa per motivi di studio. Perché il fatto è venuto, è stato reso noto in questi giorni, e quindi gli uffici competenti stanno cercando di capire che cosa è successo, e credo sia corretto non dichiarare nulla fino a quando non è stata fatta la massima chiarezza su una questione davvero molto delicata, e quindi credo sia assolutamente corretto, e pertanto diamo il tempo di andare a verificare una macchina complessa e articolata e capire che cosa è successo, per evitare comunque di fare passi che possono essere complicati e che possono essere anche insomma lesivi di una situazione che è già assolutamente delicata, e pertanto credo sia corretto. Io mi auguro che però questa situazione ci insegni un po' alle istituzioni, insegni un po' al paese in termini generali, che non si può immaginare che lo Stato da una parte agisca in una direzione e dall'altra l'altro pezzo del sistema pubblico non sappia queste informazioni, e credo che il nocciolo della questione sia lì. È proprio questo, ma è assolutamente il nocciolo è questo, che ovviamente suscita indignazione, suscita rabbia, suscita preoccupazione, però questo è il problema, e pertanto spetta a chi ha responsabilità istituzionali avere assoluta certezza di cosa è successo innanzitutto, e secondo luogo cercare di mettere in atto tutti quegli strumenti che possano ovviare questa situazione. Tra l'altro, io non come so... correttamente è stato detto un attimo fa, gli insegnanti fanno un'autodichiarazione e si dichiarano di non avere condanne penali, e questa è la dichiarazione. Dopodiché voi immaginate le migliaia di insegnanti che operano all'interno del mondo della scuola, se per ognuno si dovesse andare a richiedere il certificato penale diventa un po' complicato, il processo dovrebbe essere almeno però dovrebbe essere un procedimento per cui Zurlo, tu che segui molto la cronaca giudiziaria, anche nel momento in cui c'è una sentenza, non so, non c'è il meccanismo per cui dal tribunale arriva una segnalazione alla scuola o al ministero, cioè non avviene questo meccanismo. Questo è uno dei punti, qui non c'è nessun meccanismo, chiamiamolo automatismo, per cui almeno per certi reati si attivi una sorta di canale di comunicazione tra tribunali, circuito penale e circuito poi scolastico. Io voglio anche ricordare che ho chiamato la scuola ovviamente prima di pubblicare il pezzo, ho chiesto di questo professore, mi hanno detto e via, appunto ha chiesto un permesso per un tirocinio, per un corso eccetera, ma mi hanno detto tornerà subito dopo le vacanze di Natale. Non è che stiamo parlando di uno che è via per un anno o due anni, stiamo parlando di uno che era via, gli hanno detto, da meno di un mese, e che poi sarebbe tornerà dopo le vacanze di Natale. Adesso vedremo, ecco, dopo questa vicenda, una vicenda mediatica, vedremo, insomma. Nel frattempo si spera che, Stefano, che le indagini dell'ufficio scolastico portino a un... Ma io sono molto, molto scettico, cioè se non ci fossero stati, se non ci fossero gli articoli, le trasmissioni come questo caso sarebbe finito nel dimenticatoio e nel silenzio. Probabilmente la pressione, il fatto che ne stiamo parlando in questo momento in una radio molto ascoltata, farà sì che poi qualcuno, il ministero, si attiverà e alla fine si arriverà a una qualche conclusione, tutta da verificare, perché poi subentrano ulteriori meccanismi tutti italiani, per cui quando c'è un una pena patteggiata, poi si discute sulle conseguenze disciplinari. Purtroppo non è la prima volta che succedono anche cose ancora peggiori, cioè di notizie che diventano pubbliche di questo tenore e poi il fatto di dire non si può fare nulla, no guardi, dobbiamo vedere che non si arrivi a questo, ecco, almeno a dire sì, effettivamente abbiamo accertato, è tutto come è detto, che peraltro nei casellari giudiziari è già stabilito, ma non possiamo farci nulla perché ha patteggiato una pena, la pena è scontata. No, non si arrivi a questo, perché sennò marciamo verso il ministero. Sì, purtroppo i gradi della vergogna del nostro Stato sono i gironi della vergogna, sono senza fine, e quindi bisogna stare molto molto attenti, perché non è la prima volta che si verifica una situazione drammatica del genere, in cui una persona ha tradito il patto di lealtà con l'opinione pubblica, ha tradito l'infanzia che gli era stata affidata e appunto tranquillamente è andata avanti. Ma qui siamo addirittura al paradosso dello stipendio pignorato. Infatti, che dovrebbe se non altro accendere qualche lampadina il fatto che sia pignorato lo stipendio. Comunque, io prometto che insomma quello che possiamo fare è tenere accesa la vicenda, tenere accesi i riflettori su questa vicenda. Intanto ringrazio Stefano Zurlo del Giornale, ringrazio l'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, grazie molte davvero a Giovanna Pentenero. Vedremo, e quando l'ufficio regionale scolastico ha finito la propria inchiesta, noi siamo qui a disposizione. 24 mattino. Allora, siamo qui alle 8:42 minuti. Molti ci scrivono sdegnati a dire: ma com'è possibile questo caso del professore condannato in via definitiva, ha patteggiato un anno e 8 mesi, credo, per abuso sessuale su una bambina che ora insegna a Torino. Torneremo su questa vicenda, terremo i riflettori ben accesi, perché chiaramente non possiamo lasciarla passare così. Ma intanto voglio salutare un ospite che ci racconta una vicenda che è stata portata alla luce da Gian Antonio Stella qualche giorno fa, con tanto di denuncia pubblica, risposta pubblica del presidente della Camera Laura Boldrini, una vicenda che riguarda Giancarlo Galan. È il suo avvocato Antonio Franchini che saluto. Avvocato Franchini, buongiorno e benvenuto. Allora, Gian Antonio Stella ha detto pubblicamente: ma come diavolo è possibile che Giancarlo Galan, che ha patteggiato una pena 2 anni e 10 mesi, ha promesso la restituzione di una ingente somma di denaro, credo 2.600.000 euro, mi corregga avvocato se sbaglio, è questa, sia ancora presidente della commissione cultura, nonché onorevole, nonché stipendiato, questo ce lo conferma, stipendiato dalla Camera. Sì, certo, non con l'indennità, ma con lo stipendio base. Sì. Stipendio base. E lei come se lo spiega? Beh, dal punto di vista tecnico. Adesso glielo spiego. Dica. Perché vede, l'approccio a questo tipo di problema deve partire da un presupposto. Galan non si è mai dichiarato colpevole, neppure in sede di patteggiamento. Si è sempre dichiarato innocente e ha scelto la strada del patteggiamento per motivi di natura familiare e per gravi ragioni di salute. Non essendo, diciamo così, e non ritenendosi colpevole, avendo sempre proclamato la propria innocenza, attende che la sentenza diventi definitiva, perché si innestino le procedure previste dalla legge Severino. Se la Corte di Cassazione, cui abbiamo fatto ricorso contro la sentenza di patteggiamento, dovesse determinare il passaggio. Quindi, diciamo, fino alla Cassazione, come tutti, è innocente fino a prova contraria, affinché non è passato in giudicato. Come tutti. Senta, ma è vero che lei ha detto questa frase, ieri il Fatto Quotidiano riportava questa frase, dice: gli hanno permesso che gli venissero messe le manette ai polsi, figurarsi se adesso dovrebbe fare alla Camera la cortesia istituzionale di dimettersi, il mio assistito. Sarebbe una mia dichiarazione? Sì. No, assolutamente no. Non ho mai detto nulla di simile al Fatto Quotidiano, con cui non ho parlato assolutamente. Vabbè, insomma, forse è un'agenzia che l'hanno preso. Lei ha detto questa frase perché è un virgolettato, no? I virgolettati sono molto frequenti. No, non ho mai detto questa frase e assolutamente. Comunque lei ci conferma, Galan non ha intenzione di dimettersi da deputato. Si dimetterà o meglio sarà dimesso con le procedure previste dalla legge Severino. Certo, lui volontariamente no, quindi insomma, no, perché si ritiene, ripeto, e ha sempre proclamato la sua assoluta innocenza. Gian Antonio Stella ne faceva una questione anche, se vuole, etica, avvocato, cioè dire che figura ci facciamo a metterlo presidente di una commissione importante come quella della commissione cultura, insomma, alla Camera. Adesso guardi, questa è una valutazione che potremo fare non appena poi lui si sarà ripreso, starà bene, perché adesso ha avuto un incidente anche. Sì, un incidente molto serio, diciamo così, una frattura pareofrontale. E quindi è in convalescenza, sta guarendo, dopodiché farà lui le sue valutazioni. I diritti politici sono qualcosa di molto delicato, insomma. Quindi farà le sue valutazioni circa la presidenza della Commissione Cultura della Camera, non certo su quella di onorevole, perché ripeto, quella di onorevole è condizionata da una precisa procedura di legge. Sì, sì, certo, la legge Severino, poi lei dice, sì, considerandosi lui innocente, certo. Non, di certo non pensa di dimettersi, di dimettersi da deputato. Ha letto lei la replica che la Presidente della Camera Boldrini ha fatto a Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera domenica, credo, dicendo di fatto, in soldoni, il regolamento della Camera non consente, siamo un paese di regolamenti che non consentono. Siamo un paese di regolamenti e naturalmente i regolamenti vanno applicati a tutti, tutti devono avere gli stessi diritti, non si vede perché Galan ne debba avere meno degli altri. Questo sì, però cioè, insomma, per lei è normalissimo, va bene così, ma anche al di là del suo assistito, cioè che ci siano casi di persone che sono, che ne so, agli arresti, in questo caso agli arresti domiciliari, che abbiano patteggiato pur giudicandosi innocenti, pur dicendosi innocenti, e sono deputati, sono pagati, sono stipendiati, sono pagati da tutti noi in qualche modo. Ma qui bisognerebbe cambiare la legge? Allora... Bisognerebbe che... non le cambiano mai, queste leggi. Le cambiano in peggio, diciamo, come è avvenuto recentemente. Cioè, bisognerebbe che allora l'istituto del patteggiamento prevedesse direttamente la regola della decadenza. Sì. Sì, però lei capisce che una legge ordinaria che ritenga la decadenza in relazione all'esercizio di un diritto politico di una persona eletta non sarà mai possibile concretizzarlo, perché avremo dei problemi costituzionali. Sì, sì. Quindi temo che il problema sia irresolubile, cioè nel momento in cui si verifica la condizione prevista dalla legge sarà applicata come a tutti la procedura di decadenza dell'onorevole Dalla. Ecco, però per quel che riguarda lo stipendio, lui prende l'indennità in questo momento? No, non prende l'indennità. Prende la base, diciamo, non so dirle quasi. No, perché ieri il Fatto Quotidiano diceva che c'è una proposta del Movimento 5 Stelle di proprio sospendere l'indennità. Lei invece dice l'indennità non... No, l'indennità non c'è perché non va. E quindi non può avere l'indennità. Non può prendere questo. E neanche la sospensione, cioè non si potrebbe fare al contrario, in attesa di capire se è innocente si sospende, visto che agli arresti ha patteggiato comunque una pena. Sarebbe del tutto illegale. Il problema è questo. E quindi dovrebbero cambiare la legge. Comunque io intanto la ringrazio, ci ha già detto che non sta molto bene, perché ha avuto questo incidente, che lo sia caduto da una scala mentre nella sua vita. Si è procurato dei danni piuttosto gravi, insomma, ecco. Piuttosto gravi. E va bene, ovviamente da questo punto di vista in bocca al lupo all'onorevole Galan. Intanto la ringrazio, insomma, avvocato, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie all'avvocato Antonio Franchini, avvocato di Giancarlo Galan, che, come ha scritto Gian Antonio Stella, dice ancora presidente della Commissione Cultura, oltre che ovviamente deputato, e ci ha spiegato l'avvocato non intende certamente dimettersi, visto che si ritiene innocente, e fino a prova contraria, fino alla Cassazione lo è. 24 mattina. Allora, alle 8:50 minuti c'è Giuseppe che ci chiama da Bergamo, credo, per la vicenda prima del professore. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, non sono professore. Sono, no, per la vicenda del professore, immagino. Sì. Ero 15 anni fa rappresentante di classe per quanto riguarda la parte dei genitori. Sì. In una scuola media, una bambina, avevamo capito dalla mamma, dagli altri genitori, che era diventata mutacica. Poi abbiamo avuto la prova di molestie. La prova consisteva in un pizzino da parte del professore con disegnati cuori, peni, eccetera, eccetera. Abbiamo chiesto l'intervento del preside, il preside ha chiesto l'intervento dell'ispettore regionale. Sì. È arrivato, ci siamo seduti e abbiamo deciso che questo professore, insomma, aveva qualche problema, però non potevamo neanche andare oltre i nostri poteri. Abbiamo deciso di prevenire, quindi avrebbe dovuto essere questo professore, con prove alla mano di molestie verso la bambina, di farlo insegnare in una classe per adulti. In questo modo si sarebbe risolto il problema. Nel frattempo, ovviamente, la scuola avrebbe dovuto fare. Ma scusa, lei mi sta dicendo che la scuola non ha, cioè, nel senso, è stata chiusa così la vicenda. Spostiamolo. Sì, l'anno successivo l'ho trovato in una scuola per bambine ancora. Ah, ecco. Questa è non solo, ma il mio figlio è stato. Questo professore comunque è stato lì, mi pare, uno o due anni ancora, è stato bocciato 3 volte in quella scuola con gli stessi insegnanti. Cioè, a me è sembrato anche una sorta di paura da parte della corporazione di non essere. Ma lei siccome ci sta dicendo che questo professore è stato spostato, ma è stato spostato, l'ha ritrovato in una scuola a contatto con bambini. E io non. Cosa devo dire, Giuseppe? Vabbè, grazie per questa testimonianza. Va. Cambiamo pagina, ma tanto torniamo su questo. Ciao Italia! Siete pronti? E allora, voi dovete scrivere una mail a 24mattino@radio24.it se ci ascoltate dall'estero, perché siete un popolo in marcia, dico io, in questo Ciao Italia. Ogni giorno chiamiamo uno di voi, abbiamo una lista infinita, e guardate che vi chiamiamo tutti, anche quelli che ci hanno scritto all'inizio, prima o poi toccherà anche a voi, abbiate fede. Oggi vogliamo andare dove? Da Cinzia. Cinzia, buongiorno, da dove ci parli, Cinzia? Ciao, ciao Milan, vi chiamo da Magonza, in Germania, Mainz. Sì, Mainz, esatto, in tedesco Mainz. E che ci fai lì a Magonza? Allora, sono in viaggio da quasi 10 anni e ho vissuto 8 anni negli Stati Uniti, adesso da ormai 2 anni vivo qua. Sì. E mi ha portato qua mio marito, quindi sono qua per amore. Sei qua? Beh, che bello, dai, che bello. E che città è Magonza? Una città di che tipo? È bellissima, è molto bella, è una bellissima molto città, culturale. Si vive molto bene. Sì. Qui siamo nella Renania Palatina e dicono che sia la zona più mediterranea, dove la gente è più amichevole. È vero? C'è il vino. Sì, è vero. In effetti è vero, anche il clima è un pochino più mite. Non come, io sono sarda, quindi non è certa la Sardegna. Beh, cioè, non è sarda di dove? Sono della provincia di Ogliastra. La provincia di Ogliastra. Si chiama Arzana. Arzana, una di quelle province che hanno costruito, vabbè. Ma che ci dici da Magonza? Come si vive? Che si racconta dell'Italia? Che immagine hai tu dell'Italia attraverso magari la nostra trasmissione? Ma io in realtà, allora, io insegno italiano all'Università Popolare. Sì. E devo dire che tutti i miei studenti amano l'Italia, ma soprattutto la cultura, il cibo, l'opera, e quindi in generale è un'immagine molto positiva. E poi la gente per strada si parla della politica, però non tanto, in realtà non approfondiamo più tanto. Però non digli che abbiamo come presidente della commissione cultura alla Camera Giancarlo Galan, che ha patteggiato una cosa. No, perché amano la cultura, magari, sai, i tedeschi sono molto, dice, ma come è possibile una cosa del genere, magari. E poi le leggi, devi spiegare queste cose. Tu com'è che ci ascolti in live? Allora, io la mattina, quando mi alzo molto presto, di solito accendo subito su Radio 24, riesco ad ascoltare la metà della tua trasmissione, e il resto l'ascolto in podcast. Ah, fantastico, fantastico. E rimpiangi qualcosa dell'Italia, della tua straordinaria Sardegna? Il caldo, però in generale penso di essere una cittadina del mondo, quindi mi trovo bene ovunque. L'unica cosa è che vivo con due milanisti in casa e io sono juventina e questo non mi piace. Però guarda Cinzia, te lo dico a tutti gli juventini, ci sono delle cure adesso ottime che in una settimana si guarisce. È proprio la medicina ha fatto dei miracoli straordinari, credo anche in Germania. Cinzia, grazie, ti abbracciamo tantissimo. Ovviamente un abbraccio a tutta Magonza, Mainz, a tutta la Germania e anche ad Angela Merkel. Sì, dai, anche ad Angela Merkel. Salutiamo allora tutti con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Ci ritroviamo domani alle 6.30 come sempre. Seguitemi anche su Twitter se volete, il mio profilo è Alino Milan. A domani.